mobilitazione si inserisce insomma sulla scia di quello che è accaduto attorno a questa vicenda interminabile dell'ultimo bilancio insomma che dovrà votare il Comune di Roma in era Alemanno sostanzialmente, perché evidentemente è fallita insomma anche alla grande mobilitazione dal basso la vendita di nuove quote, insomma di ulteriori quote di Acea. Il sindaco si è precipitato a capire quali erano le possibilità di recuperare circa 200 milioni di euro che a quel punto venivano a mancare. Come sapete bene è partita insomma questo lavorio attorno alla vendita comunque di pezzi pregiati nella maggior parte dei casi della nostra città, quindi del patrimonio pubblico. Si tratta sicuramente di vendita di cose diciamo più piccole tra virgolette, meno scandalose come le pompe di benzina insomma, che il Comune di Roma ancora possiede, fino ad arrivare però a cose molto più consistenti, cioè ancora quel patrimonio pubblico, quegli alloggi pubblici che invece di gestire insomma si preferisce mettere all'asta, terreni e una lista di beni non abitativi, insomma non residenziali, molto consistente. Tutto condito dalla possibilità che ciò venga o messo all'asta o inserito in un fondo immobiliare che possa garantire qualche soldo fresco nelle casse dell'amministrazione comunale, qualche soldo fresco per fare ormai campagna elettorale, perché si tratta evidentemente del bilancio 2012, per cui di soldi in buona parte già spesi e evidentemente come dire un bilancio preventivo che diventa quasi consuntivo. La vergogna è che come dire dopo il fatto come dire che è stata contestata la vendita di un bene comune, insomma come noi consideriamo l'acqua pubblica e l'energia per tutti, e invece di continuare nella stessa logica, cioè vendere la città migliore offerente ad amici e amichetti per andare avanti qualche mese e per rimanere appiccicati su queste poltrone dal cui non ci si vuole mai scollare, per cui oltretutto dopo gli scandali avvenuti alla Regione Lazio vogliamo tornare a manifestare con tutta la forza che abbiamo in corpo per dire che questa delibera va ritirata e che invece questo bilancio deve mettere al centro le contraddizioni sociali di questa città, le scuole che non ci sono, gli asili che non ci sono, l'assistenza all'handicap che sta venendo a mancare in tantissimi plessi di questa città, la questione dell'emergenza abitativa e della casa, soltanto per dire alcune delle contraddizioni, delle questioni su cui noi vogliamo come dire, chiedere il conto a questa giunta che ha soltanto aiutato amici e parenti ad inserirsi, a dissestare le aziende pubbliche, quindi l'invito un po' è a venire con noi insomma, a manifestare, perché non riguarda soltanto chi non ha una casa, chi ha occupato, i movimenti per il diritto alla casa e all'abitare, riguarda un po' tutti e tutte questa contestazione che stiamo mettendo in campo. La conferenza stampa sarà alle 13.30 dopo l'incontro che abbiamo conquistato qualche giorno fa, che si terrà invece a mezzogiorno, quindi potremo vedere un po' e raccontare come è andato, ma comunque convochiamo già per il pomeriggio per le 3.30 una nuova ed agguerrita manifestazione in piazza del Campidoglio. Bene Luca, noi ci sentiremo ovviamente nel pomeriggio, sia per avere notizie su questo incontro sia per raccontare la manifestazione. Una cosa ti volevamo chiedere: i tempi di questo bilancio quali possono essere secondo te, secondo voi, visto che insomma, ne parliamo ormai da diversi mesi e poi non c'è giorno che non arrivi un nuovo scandalo a battersi sulla testa di Alemanno, per cui che ci dobbiamo aspettare? Ma evidentemente c'è tanta confusione. Già giovedì scorso si parlava di una seduta del Consiglio Comunale che andava a chiudere questa delibera sulla vendita del patrimonio e quindi apriva rapidamente la pagina del bilancio vero e proprio, insomma degli investimenti, dei conti da approvare. E ci viene rappresentato un clima di grandissima incertezza, quindi oggi potrebbe essere il giorno buono, ma potrebbe anche non esserlo, perché evidentemente e alle contraddizioni con i movimenti, con i cittadini, con l'opposizione, no? In questa situazione preelettorale si fa sentire, io direi più per opportunismo che per altro, insomma, perché in altri momenti l'abbiamo vista silenziosa, insomma, no? Non contestare mai ciò che Alemanno si apprestava ad approvare. In questo momento queste contraddizioni e quelle interne alla maggioranza evidentemente rendono tutto più difficile, quindi la seguiamo un po' di ora in ora. Potrebbe essere oggi il giorno in cui si va un po' alla resa dei conti su questa vendita del patrimonio pubblico, questa ulteriore vendita del patrimonio pubblico, e potrebbe essere anche che ci sia un ulteriore rinvio. E staremo a vedere, l'unica cosa che possiamo fare è un po' tenerci aggiornati e capire con le nostre capacità di mobilitazione come poter incassare questi signori.